Come primo intervento iniziamo presentando la rivista Di Qui e Ora. E abbiamo Andrea che è venuto dalla Spagna, da Roma. E, ci portano una rivista che è frutto di un progetto che che è frutto di un progetto che viene, che è stato meditato da molto tempo. E mi ha incuriosito soprattutto il titolo di questo progetto, no? Di Qui e Ora. E i ragazzi in realtà vogliono cercare di farci riappropriare della consapevolezza di quello che ci sta succedendo attorno. E non parlando solo di politica e di letteratura, ma anche dell'ambiente. E niente, grazie. Ciao a tutti e tutte. Sì, un pochetto come diceva la compagna, ne stavamo parlando prima, il qui e ora, già il titolo dice abbastanza di che tipo di rivista vuole essere, come intendiamo il mondo. Prima diceva che l'aveva incuriosito questa, negli ultimi articoli, per esempio questa critica al concetto di attesa, no? In effetti, cioè, diciamo, un poco tutta la nostra vita politica, però anche in questa rivista vuole essere rispecchiata. Cioè il modo di intendere in qualche modo, potremmo dire, il comunismo, un comunismo come negli anni 70, il comunismo del qui e ora, del basta con questa teologia, potremmo dire, sia che viene sia della modernità o del giudeocristianismo, ma anche dell'altro comunismo, il comunismo statalista, socialista, per cui sempre bisogna aspettare il sol dell'avvenire. Cioè noi pensiamo che è finito il tempo ad aspettare, che dobbiamo agire qui e ora, che l'unico comunismo davvero desiderabile è quello che si può vivere qui e ora, quello che, il possibile comunismo, quello che viviamo. Un po' inizio giustificandomi rispetto a quello che farò o non farò, per dire così, perché in realtà siamo stati presentati, anche invitati in qualità di rivista. In realtà qui e ora è vero che, come diceva la compagna, il progetto in qualche modo è in cantiere da tempo, cioè da discussioni, riflessioni fra compagni e compagne di tutta Italia sopra darci uno strumento comune, condiviso. Però in realtà, come non so chi ci segue già su internet, cioè siamo ancora al numero 2, cioè abbiamo fatto 3 riviste, il numero 0, l'1 e il 2, quindi in realtà più che un progetto in sé, più che un prodotto finito, una rivista, a parte che pure, appunto mi hanno detto di fare, se effettivamente una rivista, ma è un sito più che altro, anche se il formato in effetti è quello della rivista, ogni mese escono dei blocchi di articoli. Però questo per sottolineare, non ci inseriamo, noi almeno non ci sentiamo una rivista, né accademica né militante. Dicevo, per giustificarmi un po' del fatto che non ho un intervento strutturato sul cos'è qui e ora, perché essenzialmente, essendo iniziato comunque da un paio di mesi come progetto, è un progetto molto in fase di sperimentazione, in cui ci stiamo incontrando ovviamente con difficoltà, ci stiamo sperimentando in questo progetto, ma ancora quello che più o meno abbiamo chiaro è che cosa non è qui e ora fino adesso. Qualcosina ci dice cosa è, ma più che altro potremmo parlare di cosa potrebbe essere e cosa potrebbe divenire. A livello così, cioè per fare un'introduzione di cosa vuol dire un progetto collettivo, soprattutto portato avanti in diverse città, cioè inizio per dire comunque ci sono molte difficoltà nel fare questo, per chi vuole intraprendere un percorso di questo tipo, molte difficoltà, e però comunque non ci devono far fermare. C'è un progetto molto più figo il fatto che non sia monolitico, che parta da un centro e si diffonda in altre città, ma che ci siano più persone a più città, per esempio a far parte della redazione. Però potete immaginare pure le difficoltà che dà da questo punto di vista, il punto di vista del coordinarci, dell'organizzarci, del, fra virgolette, banalmente di che argomento parliamo in questo mese, cioè il fatto di non poterci vedere continuamente evidentemente rallenta tutto questo. Però cioè, siamo contenti di come sta andando. Un'altra difficoltà è evidente, perché oltre alla redazione comunque abbiamo stabilito una redazione numerosa di molte persone, però non vogliamo fare la classica rivista per cui, cioè, scriviamo articoli sempre noi, ma vuole essere in qualche modo una rivista, pure uno strumento pure per fare incontri con altre persone, con altri compagni e compagne. Quindi in qualche modo trovare uno dei lavori forse più impegnativi è quello di trovare collaborazioni, collaboratori e collaboratrici sia stabili ma anche puntuali, quindi quello è tutto un lavoro che non si vede evidentemente nella rivista, però che forse è quello più difficile, cioè il mantenere tutti questi contatti. E, vabbè, partiamo quindi un poco dalla genealogia, diciamo, che ora dove nasce. Dicevo prima, cioè diceva pure Brigida, che in realtà, appunto, nonostante sono un paio di mesi che pubblichiamo, c'è cioè un progetto, o comunque il fatto di avere uno strumento condiviso, collettivo, fra più città, più compagni e compagne che ci conosciamo da tempo, sono dibattiti che si stanno dando da molto tempo. Più o meno la questione era avere uno strumento a partire da cui trovare un piano di consistenza comune che potesse toccare, che fosse non solo organizzativo nella pratica, ma nemmeno non solo teorico e astratto, quindi in qualche modo unire sia l'analisi, la parte più teorica e sviluppo di teoria nostra, di parte, direbbero negli anni 70, di dibattito e anche organizzativo. Diciamo pure che queste persone non è casuale, cioè siamo persone che ci conosciamo da tanto tempo e che più o meno, diciamo, questo spazio, questo strumento di qui ora vuole dar spazio a chi, diciamo, non si sente poi così comodo, diciamo, nella militanza classica, e quando dico la militanza classica non intendo solo quella di partito, ma anche, diciamo, in qualche modo di movimento, e quindi anche nei suoi format, nei suoi strumenti, cioè chi non si sente parte di strutture ben costituite, per così dire. Quindi, diciamo, perché nasce qui ora? Quali erano queste inquietudini di cui parlavo, comuni, condivise? Diciamo che più o meno la questione è, siamo partiti da un punto del vedere che in Italia ci sono molti strumenti che il movimento, i movimenti si danno, però questi strumenti utili, molti, la maggior parte pure molto buoni e positivissimo che ci siano, però pure con dei limiti, molte volte, diciamo, si limitano a essere strumenti in qualche modo informativi, che facciano in qualche modo una narrativa delle lotte, in qualche modo una cronaca 24 ore su 24 di quali sono tutte le lotte. In qualche modo vorremmo andare oltre questo format. Iniziamo pure dai riferimenti in qualche modo che ci eravamo dati, gli strumenti che già ci sono in Italia e non solo. Per esempio, all'inizio, qui e ora, voleva essere, abbiamo detto, vabbè, quali sono gli strumenti, appunto, da una parte c'è il sito classico di informazione, di cronaca di tutte le lotte, anche di analisi, però in quella logica, diciamo, dell'immediatismo delle lotte, come può essere, insomma, un info out, quindi una parte di questo, di quello strumento, è quindi diretto ai militanti, alle militanti, cioè ci deve essere in questo qui e ora, non può essere totalmente non si può astrarre da quella logica, da quel soggetto di riferimento, fra virgolette, che siano i militanti. D'altra parte, però, appunto, non vogliamo limitarlo a quello, quindi un altro, diciamo, un'altra rivista, un altro strumento che ci era sembrato interessante in qualche modo riprodurre, politicizzandolo di più, era per esempio lo stile di Vice. Vice con i suoi reportage, in qualche modo, evidentemente, cioè dargli un taglio molto più politico, molto più politicizzante, però sarebbe interessante, questo per esempio ancora, cioè, diciamo, è in quella fase di sperimentazione, ci stiamo provando, però sarebbe per esempio molto interessante, dicevamo, riuscire a fare dei mini reportage, per esempio sulle forme di vita metropolitane, come possono essere, noi abbiamo degli amici e delle amiche dalla Rue, che sono dei writers politicizzati, e cioè sarebbe interessante fare un reportage su come si muovono le forme di vita non conformi dentro la metropoli. D'altra parte, per esempio, pure il reportage su quelle che può essere le forme di vita contadine, questo un po' di più grazie a delle collaborazioni di compagni e compagne di Bologna ci stiamo riuscendo. E il terzo referente, tra virgolette, punto di riferimento che vorremmo in qualche modo, non dico imitare, però, cioè, prendere come esempio, era Lundi Matin, un sito francese, i compagni francesi. Dico Lundi Matin perché forse è quello che in realtà più somiglia in qualche modo a qui, oppure quello che qui e ora vorrebbe divenire in qualche modo. Cioè, Lundi Matin è uno strumento di cui dei compagni francesi sono dotati qualche anno fa, di analisi, di dibattito. Pure loro non voleva essere uno strumento di cronaca delle lotte, ma più di per provare, appunto, a analizzare a freddo cosa sta succedendo e dare dibattito ai movimenti. Questo strumento è andato bene, è nato in un momento di bassa, diciamo, di movimento, in cui non c'erano movimenti forti, si è iniziato a diffondere, compagni e compagni hanno iniziato a leggerlo, poi l'anno scorso, così d'improvviso, è scoppiata l'insurrezione con il movimento della Lua Travail, e quello strumento che già c'era da qualche anno è diventato uno strumento fondamentale per il movimento. Questo non lo dico perché diciamo qui ora deve essere lo strumento egemonico del movimento, però penso che in quell'ottica è interessante vedere in prospettiva, a livello in qualche modo strategico, cosa può essere più che quello che cos'è, per dire così. Vabbè. Diciamo sempre su queste inquietudini di cosa volevamo parlare in qui e ora, evidentemente una delle cose che ci sembrava limitante a livello di format dei movimenti era che sempre appunto i vari siti di informazione di cronaca sempre hanno l'occhio su quello che potremmo definire il politico, cioè gli aspetti politici delle varie lotte, delle varie rivendicazioni, quindi, appunto, cioè, separando, diciamo, la sto facendo molto semplice, evidentemente non è sempre così, però separando quello che è il politico dal non politico. Noi invece in qualche modo, con tutte le riflessioni che ci siamo fatti sul concetto di forma di vita, sul fatto appunto il comunismo come forma di vita, anche la militanza come una forma di vita, cioè vorremmo restituire, diciamo, a partire da questa rivista un poco questa visione un po' più integrale, per cui non si può dividere la questione del politico da quello del culturale o del sociale, quindi in qualche modo, cioè, che ci sia uno strumento che riesca a racchiudere tutta questa intensità che attraversa il concetto di forma di vita e diffonderlo. Dicevo prima che più che altro appunto iniziavo dal cosa non è qui ora, in realtà più o meno già l'ho detto, cioè appunto qui ora non è, e così va preso, perché forse con la citazione di Landi Matan in questo breve è un po' diverso. Landi Matan sì che è riferibile in qualche modo a delle strutture di movimento, potremmo dire, abbastanza facile sapere chi lo fa. Qui ora non vuole essere questo, cioè non vuole essere l'organo in qualche modo di diffusione di una parte di movimento o di struttura, non vuole essere nemmeno quello che si considera, per tutto quello che ho detto prima, il sito di movimento, fra virgolette, né la sede digitale di un'organizzazione, perché appunto qui ora non è un collettivo. In questo momento siamo molti amici e amiche che lo stiamo portando avanti, però speriamo che questo, cioè, che ci faccia fare gli incontri di cui dicevo prima, quindi conoscere gente anche diversa, in qualche modo che questo strumento si trasformi in modo espressione di tutta quella pluralità di mondi che abbiamo davanti, che abbiamo dentro il movimento, ma anche fuori il movimento. Non si sente il microfono? Ok. Ok. Anche dire, rispetto che sto parlando così dei vari format o siti di movimento, cioè che non si pensi che volesse una critica, ah no, questo è una figata, qui ora il resto non serve, cioè evidentemente tutta questa riflessione nasce dal fatto che già ci sono tanti strumenti di movimento, la maggior parte molto utili per quello che fanno, che servono, questo in qualche modo vuole andare a complementare in quello che quei format non raggiungono, e in qualche modo, cioè, avere delle funzioni in senso rivoluzionario che ci sembra, della nostra opinione umile, che quegli altri formati non riescano a raggiungere. Cos'è oggi quindi qui e ora? Cos'è stato, diciamo, in questi tre numeri? Per chi già lo ha letto, avrete visto che ci sono, diciamo, pure stili o cioè tocca diversi aspetti, appunto, e non sia solo il politico. Tu citavi un pochetto la letteratura, quindi in qualche modo pure questa ripoliticizzazione della letteratura. Deleuze, Guattari parlavano della letteratura minore, in qualche modo ritrovare il politico, pure che c'è tutta la forza politica che c'è per esempio nella letteratura, ma anche delle forme di vita contadine, quindi il legame con la terra, con l'ambiente. Diciamo, tutto questo vorremmo farlo per mezzo di diversi formati, come possono essere gli articoli. Ad oggi realmente la maggior parte di ciò che c'è nella rivista sono articoli di analisi, però in teoria stiamo cercando pure collaborazioni, perché ci siano più strumenti multimediali. Abbiamo fatto molte interviste, per esempio nel primo numero c'è un'intervista fatta dai compagni bolognesi all'autonomia creativa degli anni 70 di Bologna. C'è stata un'intervista nel secondo numero, mi pare, a un compagno francese che ha pubblicato un libro sull'abitare illegale. Stiamo facendo pure molte traduzioni. Sulle traduzioni, per esempio, ci siamo in qualche modo imposti, fra virgolette, di stare a cercare cosa si sta scrivendo nel mondo, per così dire, cosa si sta scrivendo in questo momento che possa essere di interesse, che si possa in qualche modo prendere. per attualizzarlo, per farlo nostro, per scagliarlo contro il presente qui e ora. Infatti, perché questo per dire pure che il qui e ora non è nemmeno cioè non vuol dire guardarci soltanto alle nostre quattro mura, ma anche quello che fanno gli indiani Sioux nel Nord Dakota può essere qui e ora, nel senso che ci può essere utile a livello di creazione di immaginario, a livello di pratiche, anche a noi. Gli obiettivi un pochetto sì sono questi, quindi far in qualche modo attraverso le parole, le immagini, le foto, far sì che si dia una dinamica di circolazione di esperienze, di costruzione di, potrei dire, una sensibilità e un immaginario in qualche modo comune, che riescano appunto a esprimere tutti questi diversi aspetti, diversi ma uniti, che potremmo dire costituiscono quello che dicevamo prima, le forme di vita. Quindi, come ho detto, forme di vita che non si intende solo la forma di vita militante, ma anche le non militanti. Per chi avesse già visto il sito, o per chi non l'avesse visto, c'è più o meno è diviso in tre parti, potremmo dire, in tre sezioni, che sono quelle di pensare, attaccare e costruire. Perché queste tre sezioni? Perché ci sembrano fondamentali. La domanda dovrebbe essere: perché è diviso in tre sezioni, se volevate avere quell'integrità, integralità fra le tre sezioni? Quella sarebbe una domanda molto pertinente, perché evidentemente, cioè, vediamo che questi tre piani, che sono piani che in qualche modo si danno evidentemente nel movimento con cui tutti ci raffrontiamo, molte volte sono piani che si danno per separato, cioè molte volte abbiamo, cioè, il pensare da solo, quindi magari lo strumento solo teorico, che è un po' fine a se stesso, cioè, perché una teoria, evidentemente, la teoria senza pratica è autoreferenzialità. L'attaccare da solo, anche senza pensare, senza una parte costruttiva, ci dà un poco, cioè può servire sul momento, dopodiché finirà cadendo nel nichilismo autoreferenziale, del semplice attacco, il semplice scontro, un po' parafuturista, potremmo dire. E il costruire da solo, cioè, evidentemente anche quello resta autoreferenziale, perché, cioè, mi immagino, ora, cioè, non so l'esperienza di ognuno, però un po' con la comune hippie tempo fa, in cui in qualche modo te ne vai, fuggi da quelle che sono le contraddizioni del capitale, ti costruisci il tuo micromondo, però appunto senza lottare contro il capitale, senza lottare per l'istituzione del capitale. Quindi in qualche modo, cioè, vogliamo unire questi piani, li teniamo separati perché ad oggi vediamo che sono in qualche modo separati, però con questo strumento vorremmo far sì che questi piani in qualche modo si riuniscano tutti in un unico gesto, un'unica virtù, un'unica etica rivoluzionaria. Rispetto a come lo abbiamo pensato e come lo portiamo avanti, pure chi ci conosce avrà visto che non facciamo editoriali, che è una cosa un po' curiosa per quello che sono gli strumenti di movimento, e questa è una scelta voluta, il non fare l'editoriale, perché in qualche modo l'editoriale appiattisce pure appunto quella pluralità che ci può essere, normalmente dà, diciamo, la cifra di quella che è la linea politica. Cioè, qui ora non vuole avere una linea politica, non vuole avere una linea politica in sintesi totalizzante. Evidentemente questo non vuol dire non prendere posizione, cioè qui ora vuole prendere posizione, però prendere posizione per frammenti, quindi non, mentre invece l'editoriale molte volte limita questa possibilità di eterogeneità. I temi che finora un pochetto stiamo trattando e che sono, cioè, che finora sono stati quelli più presenti e che credo che saranno pure i pilastri più o meno delle nostre ricerche in questa rivista, sono evidentemente quello delle forme di vita, come ho già detto, quella è la questione della destituzione, quindi del destituire il presente, però destituzione del presente intesa come sia destituzione evidentemente del capitale, del patriarcato, della modernità e di tutto quello che sono i dispositivi del presente, ma anche allo stesso tempo, cioè, questi dispositivi come li riproduciamo noi, quindi destituzione anche del sé, di noi, di come siamo, cioè anche di noi militanti, destituzione delle forme di vita militanti. Ci sembra molto interessante riflettere rispetto a questi argomenti. Ma evidentemente sull'attualità del comunismo, però il comunismo quello di cui parlavamo, del qui e ora, comunismo dell'immanenza, qualcuno direbbe, è il metodo dei frammenti, un po' beniaminiano, del raccogliere frammenti sia dal passato che dal presente, da altre parti del mondo, quello che ci restituisce quello che prima definivo l'etica rivoluzionaria. più o meno appunto questa ricerca l'abbiamo pensata, diciamo, a partire in qualche modo a dicotomie o assi dialettiche, potremmo dire, che possono essere appunto quello del, cioè che sono già presenti nei movimenti, però ci sembra che bisognerebbero essere, dovrebbero profondizzarsi, come possono essere quella, diciamo, potere costituente, potenza destituente. Potrei dire potere costituente versus potenza destituente, visto che la differenza essenziale che c'è fra queste due. La questione dell'antagonismo, cos'è oggi l'antagonismo e come questo si può diventare uscita dal presente, uscita dal governo, uscita dai rapporti di produzione, però uscita non intesa come ghettizzazione, come dicevamo prima, in cui ti fai la tua piccola comune fuori dal mondo, ma uscita per esempio dal presente, uscita dalla metropoli nella metropoli, potrebbe essere. E poi tutta la questione del rapporto fra il collettivo, il collettivismo, però anche l'individualità, che a noi sembra in qualche modo sintetizzabile in quello che è il concetto della comune, che non il comune. Su questo, se volete, ne possiamo dibattere, però evidentemente c'è chi oggi porta avanti, diciamo, il comune come nuovo paradigma della politica, per così dire. A noi più o meno l'immagine tanto delle insurrezioni, dei moti rivoluzionari che ci sono nel mondo, ci sono stati negli ultimi 20 anni, ci sembra più l'immagine della comune. No, negli ultimi 20 anni potrei dire 2 secoli pure. Quindi, altre... un pochetto, vabbè, questo per fare un po' un punto di che cos'è qui e ora, a partire da che dibattiti ci siamo avvicinati, cosa stiamo sviluppando. Adesso, dicevo prima, cioè, qui ora vuole essere un mezzo non tanto per il movimento quanto per la rivoluzione, so che sembra molto pomposo come definizione. Cioè, che strumento è? Che parte quindi da dei limiti che avevamo visto evidenti nel presente dei movimenti. Per esempio, uno dei limiti, diciamo, uno, cioè, che vedevamo e quindi qui ora nasce come strumento per costruirlo, era quello dell'immaginario. Ci sembra che oggi sempre c'è stato bisogno di, per fare la rivoluzione, c'è stato sempre bisogno dell'immaginario rivoluzionario e dell'immaginazione rivoluzionaria. Oggi una delle cose di cui abbiamo parlato e che ci sembra evidente è che i movimenti, soprattutto italiani, siano incrostati in un immaginario che è sterile, cioè sembra quasi che non sia interessante produrre un immaginario, che l'unica cosa interessante sia come fai le azioni o magari appunto che concetto usi, però non come unire queste appunto in un immaginario comune. L'immaginario, per esempio, parlando solo di quest'anno, cioè io penso da date che abbiamo pure, in cui abbiamo pure partecipato, non è per fare la critica, anche male che lo fanno gli altri, che bravi che siamo noi, però penso per esempio alle due date forse più grandi di quest'anno, la campagna sul no sociale e la campagna che ha portato al 25 marzo contro l'Unione Europea. Pensate un po' a come sono stati chiamati o all'immaginario che c'era dietro questo, cioè il no sociale chiamato con quei faccioni brutti di Renzi per dire sì, contro il nemico, cioè c'è la sorridente, o il 25 marzo le facce pure della Merkel, di Gentiloni e di non so chi, cioè, quello non puoi fare la rivoluzione a pensare a, cioè pensando a partire da quello, è evidente. Cioè, l'immaginario, per citare un poco, per parafrasare Tano D'Amico, chi l'ha sentito sicuramente l'avrà detto pure là, lui parla sempre dell'immagine rivoluzionaria e l'immagine poliziesca. Quelle sono immagini poliziesche, cioè l'immagine simmetrica del potere. Tu rappresenti il potere con la sua o lo vorresti sovvertire con le sue stesse immagini, cioè non si fa, cioè non è quello. Cioè, l'immagine pure, l'immaginario deve essere un qualcosa di asimmetrico rispetto a quello del potere. Quindi un po', cioè, ovviamente queste riflessioni ci portano a vedere anche quello che succede in Francia, come negli ultimi 2 anni dal movimento contro la loi travail, oppure quest'anno, cioè la forza di quell'immaginario che accompagna tutti quei movimenti e quei moti che sono riusciti a partire dalla, cioè appunto l'immaginario della destituzione del presente, dei giovani senza futuro, del prendiamoci il qui e ora, del tout le monde déteste la police, cioè, un immaginario fortissimo, delle tag su tutte le tag folli, quasi situazioniste su tutte le banche, cioè, quella è la bellezza anche della rivolta. Quindi in qualche modo, cioè, vediamo che non in qualche modo è un problema, non dico solo italiano, ma è un problema che non è su scala globale. Poi potrei citare che forse andando super lontano, appunto prima dicevo ISU, chiaramente lì proprio l'immaginario ISU a cavallo contro i carri armati americani o degli zapatisti con la terra e le loro cosmogonie indigene. Stiamo parlando ovviamente di un altro livello di attacco rivoluzionario. Adesso non voglio dire che qui ora già lo sta facendo, però dico queste è un pochetto le problematizzazioni che ci siamo fatti e perché ci sembra centrale il tema dell'immaginario. Ovviamente va detto appunto che l'immaginario non è nemmeno qualcosa che si costruisce a tavolino, qualcosa che si fabbrica, che decidiamo. Sì, secondo me l'immaginario deve essere questo, questo e questo. Potremmo dire che cioè, l'immaginario in qualche modo è un qualcosa che c'è, che sta diffuso, che va colto, va attraversato e declinato in quella che è l'epocalità, in quello che è l'epoca che ci sta attraversando, in quello che è il presente, in quello che può essere, penso per dire, Occidente in declino, in decadenza, cioè crea, cioè il vedere in qualche modo il segno dell'epoca ci dà tutto una possibilità di immaginazione, di immaginario per andare oltre quest'epoca. Tra l'altro è fondamentale a livello strategico, cioè un immaginario forte è evidente che localizza il nemico, però allo stesso tempo cioè fa risuonare e comunicare le lotte, crea e lega nuove amicizie, cioè potremmo dire appunto propaga la rivoluzione pure più in là dello spazio e del tempo. Cioè con un immaginario comune noi ci possiamo legare, avere la stessa lotta degli indigeni del Sud America o degli anni 70 in Italia, ovviamente se per quello di prima non può essere semplicemente preso e messo qua, e ripetuto, imitato, va declinato. Quindi vabbè sì, l'immaginario è un pochetto in questo senso, quindi sempre con quel metodo dei frammenti di cui sopra, cioè non è semplicemente prendere e fare copia e incolla di qualcosa che c'è dall'altra parte del mondo o nella nostra storia, ma in qualche modo raccogliere questi frammenti della nostra storia, della storia minore che ci appartiene, ma frammenti di altre lotte che ci vengono, ci chiamano e ci interpellano dall'altra parte del mondo e in qualche modo riuscire a ricomporle in quello che può essere oggi la nostra potenza rivoluzionaria. Sempre su cosa vuole essere qui ora e in parte finora lo è stato, cioè che legame vuole avere con le lotte, dicevamo prima, cioè qui ora non si vuole limitare per così dire al parlare delle lotte, ma è più in generale, cioè vuole parlare alle lotte, vuole parlare delle forme di vita, alle forme di vita. Quindi in qualche modo come farlo questo? Come fare questo? Cioè, in qualche modo pensiamo che si dovrebbe rompere questa dialettica che c'è fra l'interiorità alle lotte e l'esteriorità. Cioè, perché l'interiorità troppo, cioè le lotte che parlano di se stesse solamente dall'interiorità e normalmente dagli strumenti di movimento finiscono per riprodurre in qualche modo un'autocelebrazione del sé in cui la critica o l'autocritica te la fai verso casa, però nei tuoi comunicati politici, nei tuoi strumenti di movimento è sempre la grande giornata di lotta, sempre abbiamo vinto, per oggi è andata così ma domani vinceremo, e non riesci mai a andare avanti, a imparare dai tuoi errori. Quindi in qualche modo, cioè quella è la criticità dell'interiorità estrema, dall'altra parte evidentemente l'esteriorità alle lotte, cioè la lasciamo agli studi dei movimenti sociali, alla sociologia, all'accademia, alla sua putrida dinamica di parlare di cose che non sanno, ed è tra l'altro impossibilitate di cogliere la potenza reale di quello di cui parlano. Quindi in qualche modo, cioè vorremmo riuscire in qualche modo a rompere questa dialettica, a stare dentro le lotte, però allo stesso tempo riuscire a mantenere, quindi cioè, stando dentro le lotte, una prospettiva, un punto di vista di parte, come dicevano gli operaisti, però allo stesso tempo mantenere quella forza della critica e dell'autocritica pure verso di noi, cioè che ci dà magari quel non inseguire l'immediatismo del comunicato politico, ma il poter riflettere, ragionare tra di noi, pensare, dibattere, avere pure conflitti e poi scrivere un testo. Quindi in qualche modo far emergere, potremmo dirlo così in sintesi, dalle lotte non tanto delle risposte, non vogliamo trovare risposte, vogliamo trovare problematizzazioni e in qualche modo problematizzazioni sul mondo, sul reale, ma anche su noi stessi. Dicevo prima, una questione di metodo che già più o meno l'ho toccata è quella che questo strumento non vuole essere il classico strumento in qualche modo che riproduce quella dinamica dell'immediatismo tipico dell'era cibernetica, in cui devi stare sul pezzo sempre, tutto quello che succede, tutti gli appuntamenti di movimento li devi chiamare, non perché quello sia inutile, semplicemente ci sono tanti strumenti che già lo fanno, con i suoi pro e i suoi contro, cioè noi non vogliamo stare in quello, quindi in qualche modo dicevo prima, sì, prendersi il tempo per riflettere, dibattere e a freddo in qualche modo, cioè fare un'analisi se quell'analisi merita, se non lo merita, cioè magari scrivere ci è servito per dibatterlo fra di noi, ma non merita di essere pubblicato. Questo qua più o meno lo dicevo, però sì, vabbè, questo forse più riferito al primo numero, cioè chi ha letto già il primo numero, che tra l'altro, parentesi sulle difficoltà che dicevo all'inizio, cioè il primo numero è l'unico che finora è stato stampato, cioè non si sa ancora tuttora, questo sito è pensato appunto come un sito online, però adesso stiamo raccogliendo pure feedback e stiamo capendo se continuare a stamparlo, se resterà uno strumento online. Finora l'unico in mano e questo è il numero zero. Perché il numero zero ci è sembrato importante parlare degli anni 70? Chiarissimo ovviamente il fatto che la ricorrenza tra i 40 anni i 40 anni agli anni 70, tra l'altro il primo numero abbiamo scelto una data simbolica, il 12 marzo per farlo uscire. In qualche modo cosa ci interessa di questo passato, cioè quando abbiamo scelto di fare la cosa sugli anni 70 non era tanto quell'interesse memorialistico, non era appunto, ho detto ricorrenza, ma non era l'interesse tanto per la ricorrenza, il compleanno degli anni 70, no, anzi gli anni 70 hanno apportato molto, hanno avuto pure i loro limiti, oggi anche, questo lo dico proprio a livello politico, anche grazie a una narrazione che in qualche modo viene dagli anni 70 e che prova diciamo, a mettere il cappello agli anni 70 e in qualche modo stiamo dove stiamo pure per colpa di quello che si è pietrificato a partire dagli anni 70. Quindi in qualche modo i nostri anni 70, quelli che abbiamo voluto raccogliere nel primo numero, diciamo sono uno dei tanti, più che anni 70, 77 in realtà, però uno dei tanti 77, cioè quello il 77 che parlava appunto del comunismo come forma di vita, del comunismo come dei comportamenti, il comunismo come abitudine, direbbe Piperno, non perché quello, cioè non vogliamo metterci in quella sfida per cui no, il 77 era questo, no, non è vero, era questo, cioè il 77 è stato tutte queste cose, però a noi quello che ci sembra importante è che oggi si possa attualizzare la potenza del 77, sta proprio in quello, nel comunismo del qui e ora, nel comunismo delle relazioni. Però appunto in questo c'è capire che pure quando ci rivolgiamo al passato non è nemmeno semplice memorialistica, in qualche modo pure lì vogliamo stare dentro la dialettica tra memoria e oblio. Questo lo cito perché abbiamo ascoltato, tra l'altro abbiamo scritto pure un articoletto su dei seminari sugli anni 70, sul 77 che abbiamo fatto a Bologna, organizzati da Gigi Roggero, in cui c'era questo passaggio del il 77 tra memoria e oblio. A me è piaciuto molto la questione cioè è necessaria la memoria perché non puoi vivere solo dell'oggi, perché quella è la logica del capitale, del presente senza storia, però la memoria va ripresa pure per essere abbattuta, perché non puoi nemmeno vivere solo nel passato. È una bella metafora. Evidentemente va quindi attualizzato il passato per attaccare il presente, leggere il passato con gli strumenti del presente e anche attaccare il presente a partire da quel futuro che ci siamo lasciati alle spalle della nostra storia minore, dicevo prima. E poi rispetto al presente, e quasi chiudo, dicevo prima, siamo molto concentrati nel fare molte traduzioni pure di quello che ci sembra interessante che si sta scrivendo da altre parti del mondo, perché pure su quello ci sembra fondamentale far comunicare, sempre per la questione dell'immaginario, far comunicare le lotte, in qualche modo ricomporre quelle che possono essere immaginari rivoluzionari, magari distanti fra sé, però in qualche modo provare a abbattere questa distanza geografica. Magari a volte ci riusciremo, magari a volte no. E infine, lo dicevo in realtà un pochetto pure all'inizio, cioè questo strumento nasce da un'esigenza che era quella di continuare a stringere relazioni con compagni e compagne, anche con non compagni che però hanno determinate inquietudini, che non vogliono più vivere in questa vita di merda, e in qualche modo qui ora vuole essere uno strumento per poterci avvicinare a questa gente e poterla avvicinare a quello che è il mondo dei militanti, fra virgolette, magari non, cioè direttamente a quel passaggio in cui o sei non militante o ti metti in una struttura da militante che devi fare tutto quello che c'è in città, cioè in qualche modo coltivare quelle inquietudini, potremmo dire. E in qualche modo, cioè, così lo viviamo, cioè come uno strumento per, da una parte, rafforzare le relazioni, i rapporti che già ci sono, cioè per esempio con tutti i compagni e le compagne d'Italia con cui che collaborano qui e ora, dall'altro pure per costruirne i nuovi, cioè da questo, in questo senso esemplari il esempio Bianca Bonavita e altri compagni e compagne di vicino Bologna che hanno questa comune rurale, forse non gli piacerebbe questa definizione, comunque vivono in campagna, però tra la campagna e la metropoli, e ci stanno facendo un sacco di contributi sulle forme di vita contadine. In realtà io personalmente, per esempio, non li conoscevo, cioè li stiamo conoscendo, stiamo coltivando questa relazione pure grazie a qui e ora. E dicevo prima, per esempio, con questi compagni e compagne di Roma, di Dan LaRue, che sono Steve Writers, che in qualche modo ci hanno detto che gli piacerebbe fare un autoreportage su quello che può essere invece la forma di vita non conforme metropolitana, quindi ci sembra pure che in qualche modo, cioè, possa servire per continuare a stringere queste relazioni. Penso pure, cioè, in questo numero, per esempio, il prossimo, cioè anzi questo già è iniziato, il numero 2, però la seconda parte sarà un mini speciale sulla gentrificazione, e per esempio abbiamo incontrato a poco dei compagni di Hit the Rich, che già li conoscevamo magari personalmente, però non a livello approfondito di relazioni. Gli abbiamo detto che pensavamo di fare uno speciale sulla gentrificazione, sono stati contentissimi, hanno detto ah, va bene, vi diamo un contributo da Bologna, magari spiegando sia come sta avvenendo la gentrificazione, sia quali sono le possibilità di lotta. Adesso stiamo aspettando il loro contributo, ma siamo in contatto per esempio per mail, cioè quindi cioè in questo senso sta servendo per fare relazioni. Ovviamente ne vogliamo fare sempre di più, vedremo se ci riusciremo. Pure la compagna ha detto che forse ci fa una un contributo il mese prossimo sull'immaginario. E comunque, niente, un pochetto questo, per chi volesse essere interessato, interessata, c'è una mail che è quella della redazione, che è redazione@quieora.inc, se volete mandare contributi o semplicemente, non so, dibattere, chiedere, questioni, se non siete d'accordo su un articolo, scriveteci, ne parleremo. Poi non so, se volete avere domande sui numeri concreti o qualsiasi tipo di domanda o intervento, prego. Avevi delle traduzioni all'inizio e alla fine. No, volevo sapere dal tuo punto di vista, allora, per quello che sono stati i tre numeri o comunque anche l'esperienza tua, vostra, regressa, dov'è che sta succedendo, dov'è la situazione più interessante o le situazioni più interessanti fuori dall'Italia, in un senso di ricompattamento almeno tendenziale di quei tre fronti di cui ci parlavi e che auspichi, giustamente? Ma secondo me qua già rispondo a livello personale. Cioè, perché esperienze interessanti ce ne sono in tutto il mondo. Io personalmente, cioè, fuori da Occidente, soprattutto nelle lotte in qualche modo che hanno nella destituzione d'Occidente il proprio centro, oggi gli vedo una potenza assoluta. Ma in qualche modo anche dentro Occidente, per esempio, da quanto ci siamo stati da poco, a me sono rimasto colpitissimo dalla Francia. Cioè, mi sembra interessantissimo, cioè, l'anno scorso per esempio io non sono andato durante la Loire Travail, però ci sono molti amici che vivono là e mi raccontavano un poco tutto il fermento che c'è pure a livello di dibattito, non solo di piazza, molte volte se si limita a vedere la Francia, diciamo, come il riot, sì, tu le monde teste la police, e facciamo il riot in piazza, però non è solo quello, cioè quello forse è il momento di apice, diciamo, incontro in cui tutti i differenti segmenti del movimento, forme di vita che stanno e non stanno nel movimento si incontrano e trovano un nemico comune, però in realtà c'è un fermento incredibile in questo momento. Poi dico Francia, però in realtà il caso che conosco un pochetto di più è Parigi, sia perché ho amici, poi ci sono stati recente, ma in cui si dava per esempio l'anno scorso, in cui c'erano scazzi dentro, però scazzi positivi dentro il movimento, no? Come gli scazzi italiani che sono pietrificati, là, scazzi che ci portiamo dagli anni 70, cioè che davvero, in cui le femministe fra di loro si prendevano assediate perché tu sei anarco-arabica, non mi ricordo, comunque a quelle che difendono il femminismo arabo, poi in Francia hanno una definizione per ogni cosa, per, comunque quelle che ci sono, quelle che sono contro il velo, pur essendo femministe, quindi le altre femministe gli danno delle femministe occidentali, poi arriva la terza corrente che sono le donne che però si organizzano in gruppi non misti, non di donne, ma in gruppi separati di persone non bianche, quindi c'è lo scazzo, poi c'è lo scazzo appunto di tra chi si organizza in gruppi separati di non bianchi, come quindi sulla questione diciamo etnica o razziale, non so come definirla, cioè vedono la linea di oppressione maggiore e quindi c'hanno gli scazzi con quegli altri, no però voi limitate il movimento rivoluzionario, però sono conflitti belli, positivi, cioè belli, poi ovviamente da vivertele con tutte le tue contraddizioni, in cui finiscono amicizie, però quello è la rivoluzione, cioè, non dico che c'è, però cioè, lì c'è lo spirito della rivoluzione. Poi boh, noi appunto ci siamo stati da poco, per questo non so se qualcuno ha letto il documento che abbiamo scritto sul primo maggio di Parigi, è stato affascinante starci in generale, non solo in quella piazza ma pure nei giorni prima c'erano le manifestazioni selvagge, vedere questa pure a livello proprio di movimento quasi più sulla questione conflittuale, cioè la flessibilità che hanno, di cui parliamo nell'articolo, in cui dalla mattina, il pomeriggio e poi la sera, ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat!